Capitolo 16. Veglia di Capodanno al faro. Gli ospiti di Green Gables rientrarono a casa dopo Natale e Marilla si impegnò a tornare per un mese in primavera. Prima del Capodanno nevicò di nuovo e la baia gelò, ma al di là dei campi ammantati di bianco, il golfo era ancora libero dai ghiacci. L'ultimo giorno dell'anno vecchio fu una di quelle giornate invernali fredde, serene e abbaglianti che ci travolgono con il loro splendore, suscitando in noi ammirazione, ma mai amore. Il cielo era di un azzurro intenso, i cristalli di neve rifulgevano al sole, gli alberi spogli, ma non per questo meno belli, mostravano senza vergogna la propria nudità. Le colline lanciavano raffiche di luce abbagliante. Anche le ombre erano di una tonalità intensa, immobili e nitide come non dovrebbero mai essere. Sotto quella luna bacinante, ciò che era bello sembrava 10 volte più bello e perciò meno attraente. E ciò che era brutto era 10 volte più brutto. Non c'era via di mezzo tra bello e brutto. Non c'erano smorzature, oscurità pietose o foschie ingannevoli che attenuassero quello sfavillio indagatore. Soltanto gli abeti mantenevano la loro personalità. Perché l'abete è l'albero del mistero e dell'ombra e non cede all'invasione della più intensa luminosità. Ma infine la giornata incominciò a comprendere che stava invecchiando. Allora una certa malinconia si distese sulla sua bellezza, attutendola e pure esaltandola. Gli angoli neti e gli sfavillii si trasformarono in curve e in tenui luccichii. La baia bianca si vestì di grigio e rosa pallido, le lontane colline diventarono color ametista. «L'anno vecchio finisce in bellezza?» disse Anna. Con Leslie Gilbert stava avviandosi al promontorio di Four Winds, poiché avevano progettato con il capitano Jim di aspettare l'anno nuovo al faro. Il sole era tramontato e nel cielo a sud-est si stagliava il fulgore dorato di Venere che aveva raggiunto il punto della sua orbita più vicino alla sorella Terra. Per la prima volta, Anne e Gilbert videro l'ombra gettata dalla luminosa stella della sera e un'ombra tenue e misteriosa che si scorge soltanto sulla coltre bianca della neve e sfugge allo sguardo diretto. «È un'ombra fantasma, vero?» sussurrò Anna. «Se guardi avanti la vedi vicino a te, con la coda dell'occhio, ma se ti volti sparisce.» «Ho sentito dire che l'ombra di Venere la si può vedere solo una volta nella vita e che di lì a un anno si avrà una sorpresa meravigliosa», disse Leslie, ma il tono di voce era duro. Era convinta che nemmeno l'ombra di Venere potesse portarle una sorpresa. Anna sorrise mentre il crepuscolo infittiva lentamente. Sapeva qual era per lei la sorpresa dell'ombra mistica. Al faro trovarono Marshall Elliott. Dapprima Anna provò un certo dispetto per l'intrusione dell'eccentrico personaggio dalla barba e dai capelli lunghi nella ristretta cerchia di amici, ma presto Marshall Elliott si dimostrò membro legittimo della confraternita di Giuseppe. Era un uomo spiritoso, intelligente e colto che rivaleggiava con lo stesso capitano Jim nell'arte del racconto. Furono tutti contenti quando acconsentì ad attendere con loro l'anno nuovo. Joe, il nipotino del capitano Jim, era andato a trascorrere il capodanno con il prozio e si era addormentato sul divano in compagnia del secondo, raggomitolato ai suoi piedi come un pallone dorato. «Non è un tesoro d'ometto?» disse il capitano Jim mangiandoselo con gli occhi. «Adoro guardare i bambini quando dormono, Madama Blythe. A mio vedere è lo spettacolo più bello del mondo. A Joe piace venire a passare la notte qui perché sa che lo faccio dormire con me. A casa deve dormire con gli altri due fratelli e non gli piace. Perché non posso dormire con papà, zio Jim?» dice. «Nella Bibbia tutti dormono con il padre e alle cose che chiede non saprebbe rispondere nemmeno il pastore. Mi fanno andare a picco. Zio Jim, se io non fossi io, chi sarei? Oppure, zio Jim, che succederebbe se Dio morisse? Me le ha sparate tutte e due questa sera prima di andare a dormire. Quanto fantasia naviga con il vento in poppa, inventa storie straordinarie. E poi la madre lo chiude nello sgabuzzino perché racconta frottole. Lui si siede e ne inventa un'altra da ammannirle quando lo fa uscire. Ne aveva una pronta per me quando è arrivato stasera. Zio Jim, fa, solenne come un sepolcro. Oggi a Glen ho avuto un'avventura. Sì? Che ti è successo? Dico io, aspettandomi qualcosa di sensazionale. Ma mi ha preso lo stesso di sorpresa. Ho incontrato un lupo per la strada, zio Jim. Fa, un lupo enorme, con una boccaccia rossa e dei denti lunghi da far spavento. Non sapevo che ci fossero i lupi su a Glen, dico io. Oh, era arrivato da molto, molto lontano, dice Joe, e voleva mangiarmi, zio Jim. Hai avuto paura? Dico io. No, perché avevo un fucile, dice Joe, e ho ammazzato il lupo, zio Jim. L'ho stecchito. Poi è andato in cielo e ha morso Dio. Beh, ci sono rimasto di stucco, Madame Blight. Le ore trascorsero in allegria attorno al fuoco di legna. Il capitano Jim raccontò le sue storie e Marshall Elliot cantò vecchie ballate scozzesi con bella voce di tenore. Infine, il capitano Jim staccò dal muro il suo vecchio violino e incominciò a suonare. Aveva un discreto talento per la musica e venne lodato da tutti, tranne che dal secondo, il quale balzò giù dal divano come se gli avessero sparato. Lanciò uno stridulo miagolio di protesta e corse a perdifiatto su per le scale. «Non riesco proprio a coltivare l'orecchio musicale di quel gatto», disse il capitano Jim. «La musica non gli piacerà mai se non vuole fermarsi ad ascoltarla». Quando arrivò l'organo alla chiesa di Glen, l'organista incominciò a suonare. Il vecchio Elder Richards fece un balzo sulla sedia, filò giù per la navata e uscì dalla porta, in men che non si dica. Ricordandomi come scappa il secondo appena sente due accordi di violino, stavo per scoppiare a ridere in chiesa. C'era qualcosa di trascinante negli allegri motivi suonati dal capitano Jim e presto a Marshall Elliot incominciarono a formicolare le gambe. In gioventù, a detta di tutti, era stato un bravo ballerino. Infine si alzò e tese le mani a Leslie. Questa accettò subito l'invito. Presero a volteggiare alla luce del focolare con meravigliosa grazia ritmica. Leslie sembrava sotto l'influsso di un incantesimo. L'abbandono dolce e sfrenato della musica si era impadronito di lei. Anna la osservava, affascinata. Non l'aveva mai vista così. L'avvenenza innata, il calore e la seduzione della sua natura si erano liberati, manifestandosi nel rossore delle guance, nella luminosità dello sguardo e nella grazia dei movimenti. Nemmeno la barba lunga e i capelli lunghi di Marshall Elliot riuscivano a guastare l'insieme del quadro, al contrario, ne esaltavano la bellezza. Marshall Elliot appariva come un antico vichingo che danzasse con una figlia del lontano nord, dagli occhi azzurri e dai capelli d'oro. «Il più bel ballo che abbia mai visto, e ai miei tempi ne ho visti tanti», dichiarò il capitano Jim quando infine l'archetto cadde dalla mano stanca. Leslie si lasciò andare nella poltrona ridendo di cuore. «Mi piace ballare», disse a parte ad Anna. «L'ultima volta che ho ballato avevo 16 anni, ma mi piace un mondo. Sento la musica che mi scorre nel sangue come argento vivo e dimentico tutto, proprio tutto, se non la gioia di andare a tempo. Non c'è più pavimento sotto di me o tetto sopra di me o pareti intorno a me. Volteggio tra le stelle». Il capitano Jim riappese il violino al suo posto accanto a una grande cornice che racchiudeva parecchie banconote. «C'è nessun altro di vostra conoscenza che può permettersi di appendere le banconote alle pareti al posto dei quadri?» chiese. «Ci sono dei biglietti da $20 che non valgono nemmeno il vetro che li copre. Sono vecchie banconote della banca dell'isola. Li avevo in casa quando la banca fallì e li ho fatti incorniciare per appenderli, un po' per ricordarmi di non fidarmi delle banche, un po' per sentirmi un vero nababbo. Salve, secondo, non aver paura. Ora puoi tornare. Per stasera musica e bagordi sono finiti. L'anno vecchio ci terrà compagnia ancora un'ora. Ho visto 77 anni nuovi arrivare laggiù dal golfo, Madame Blight». «Oh, ne vedrai 100», disse Marshall Elliot. Il capitano Jim scosse la testa. «No, non vorrei. Non vorrei, almeno credo. La morte diventa più accettabile andando avanti con gli anni, però nessuno di noi ha voglia di morire, Marshall. Tennyson diceva la verità quando l'ha scritto. Su a Glen c'è la vecchia signora Wallace. Ha avuto un mucchio di guai per tutta la vita, povera donna, e ha perso quasi tutti i suoi cari. Non fa che ripetere che sarà contenta quando verrà la sua ora, perché è stanca di restare in questa valle di lacrime. Ma se niente niente sta male, apriti cielo, chiama i medici dalla città, vuole l'infermiera diplomata e prende tante medicine da ammazzare un cavallo. La vita può essere una valle di lacrime, d'accordo, ma c'è gente che gode a piangere, a mio vedere. Trascorsero tranquillamente attorno al fuoco l'ultima ora dell'anno. Alcuni minuti prima della mezzanotte, il capitano Jim si alzò e aprì la porta. Dobbiamo far entrare l'anno nuovo, disse. Fuori la notte era scura e serena. Un nastro lucente di chiarore lunare inghirlandava il golfo. All'interno della barra la baia brillava come un selciato di madreperla. Restarono in attesa davanti alla porta il capitano Jim con la sua maturità e la sua esperienza, Marshall Elliot con la sua mezza età vigorosa ma arida, Gilbert e Anna con i loro preziosi ricordi e le meravigliose speranze, e Leslie con il fardello di anni sprecati e la visione di un futuro desolato. La pendola sulla mensola del caminetto batté 12 colpi. Benvenuto, anno nuovo, disse il capitano Jim, inchinandosi allo scoccare dell'ultimo colpo. Auguro a tutti voi l'anno più bello della vita, amici miei. A mio vedere, l'anno nuovo ci porterà tutto il meglio che il gran capitano ha in serbo per noi e di riffe o di raffe attaccheremo in un buon porto. Capitolo 16. Inverno a Four Winds. Dopo il Capodanno arrivò un inverno in piena regola. Grandi cumuli bianchi si ammonticchiarono attorno alla casetta e trine di gelo ne coprirono le finestre. Il ghiaccio della baia diventò sempre più duro e sempre più spesso e infine gli abitanti di Four Winds ripresero, come tutti gli inverni, a viaggiarvi sopra. E giorno e notte risuonava l'allegro tintinnio dei campanelli delle slitte. Nelle notti di luna, ad Anna, che li sentiva dalla casa dei sogni, sembravano campane fatate. Poi ghiacciò anche il golfo e il faro di Four Winds venne spento. Durante i mesi in cui la navigazione era sospesa, l'incarico del capitano Jim diventava una sinecura. Fino a primavera io e il secondo non avremo altro da fare se non stare al caldo e divertirci. L'ultimo guardiano del faro si trasferiva a Glen durante l'inverno, ma io preferisco rimanere sul promontorio. A Glen il secondo potrebbe mangiare del veleno o finire sbranato dai cani. Si è un po' soli, questo è vero, senza nemmeno la compagnia del faro e dell'acqua, ma se gli amici verranno spesso a trovarci, ce la caveremo. Il capitano Jim aveva una slitta a vela e Gilbert, Anna e Leslie facevano con lui delle magnifiche corse sul ghiaccio liscio della baia. Anna e Leslie scorrazzavano con le racchette da neve per i campi o sulla baia dopo le tempeste o nei boschi al di là di Glen. L'escursione all'aperto e i momenti passati davanti al focolare le rendevano sempre più affiatate. Ciascuna delle due aveva qualcosa da dare all'altra. Ciascuna delle due si sentiva arricchita da un amichevole scambio di idee o anche soltanto da un amichevole silenzio. Ciascuna delle due guardava i campi bianchi che dividevano le loro case con la confortante certezza di avere un'amica. Ma, nonostante tutto, Anna avvertiva sempre una barriera tra sé e Leslie, un ritegno che non spariva mai completamente. Non capisco perché tra noi c'è questa distanza, disse una sera Anna al capitano Jim. Mi è tanto cara, l'ammiro tanto e voglio trovare la chiave per conquistarmi il suo affetto, ma c'è una barriera che non riesco a superare. Oh, lei è stata troppo felice in vita sua, Madama Blythe, disse pensosamente il capitano Jim. A mio vedere è per questo che lei e Leslie non riuscite ad avere una comunione di anime. La barriera che vi divide è l'esperienza che Leslie ha del dolore e delle avversità. Non ne siete responsabili né l'una né l'altra, ma c'è e non potete superarla. La mia infanzia non è stata felice prima dell'arrivo a Green Gables, disse Anna seria, osservando al di là delle finestre la bellezza immobile, triste e senza vita delle ombre nude degli alberi sulla neve illuminata dalla luna. Lo credo, ma era la solita infelicità del bambino trascurato. Nella sua vita non ci sono state vere e proprie tragedie, Madama Blythe. Invece la vita della povera Leslie è stata quasi tutta una tragedia. A mio vedere, Leslie ha l'impressione anche se forse non sa nemmeno di averla, che tante cose della sua vita lei non può né concepirle né capirle. Perciò deve tenerla alla larga per impedirle di ferirla. Lei sa che se sentiamo male in un punto, evitiamo di farci toccare lì o lì vicino. A mio vedere è valido sia per l'anima che per il corpo. L'anima di Leslie deve essere una piaga aperta, non mi meraviglio che la nasconda. Se si trattasse solo di questo, non mi importerebbe, capitano Jim, capirei. Invece a volte, non sempre, ma di quando in quando, devo quasi convincermi che Leslie mi detesta. A volte sorprendo nei suoi occhi uno sguardo che sembra rivelare risentimento e antipatia. Sparisce subito, ma l'ho visto, ne sono sicura. E mi ferisce, capitano Jim. Non sono abituata a essere detestata e ho cercato in tutti i modi di conquistarmi l'amicizia di Leslie. Se l'è conquistata, Madame Blythe, non si metta in testa sciocchezze. Leslie le vuole bene, altrimenti non vorrebbe avere a che fare con lei e ancor meno frequentarla come fa. Conosco troppo bene Leslie Moore per non esserne sicuro. La sera del mio arrivo a Four Winds, quando la vidi per la prima volta mentre scendeva giù per la collina con le oche, mi guardò con la stessa espressione, insistette Anna. Me ne accorsi, nonostante restassi subito abbagliata dalla sua bellezza. Mi guardò con risentimento, capitano Jim, con vero risentimento. Sarà stata risentita per qualcos'altro, Madame Blythe, e lei si è trovata a passare proprio al momento giusto. Leslie ne ha momenti di umor nero, poveretta. Non posso darle torto sapendo quante ne passa. Non capisco perché succedono certe cose. Ho parlato a lungo con il dottore dell'origine del male, ma non siamo riusciti a venirne a capo. C'è una marea di cose incomprensibili nella vita. Non è vero, Madame Blythe? A volte sembra che le cose girino proprio a dovere, come per lei con il dottore, e poi va di nuovo tutto a rotoli. Così Leslie, intelligente e bella da poter essere regina, è confinata laggiù, frustrata nelle sue aspirazioni, con la sola prospettiva di badare a Dick Moore per tutta la vita. Ma creda, Madame Blythe, mi sembra di poter dire che dovendo scegliere preferirebbe la vita di adesso a quella che faceva con Dick prima della partenza. Però da quel marinaio vecchio e rozzo che sono, farei meglio star zitto. Ma lei è stata di grande aiuto a Leslie. Dal suo arrivo a Four Winds è cambiata. Noi, vecchi amici, vediamo la differenza. Ne parlavo con la signorina Cornelia l'altro giorno ed è uno dei rarissimi argomenti che ci vede d'accordo, perciò butti a mare l'idea che Leslie la detesti. Non era facile tuttavia eliminarla, poiché a volte Anna sentiva, con un istinto più forte della ragione, che Leslie nutriva verso di lei uno strano e indefinibile risentimento. A volte questa percezione offuscava la gioia del loro stare insieme, a volte era quasi dimenticata, ma Anna avvertiva la presenza di quella spina nascosta, pronta a pungere. Ne sentì la trafittura crudele quando confidò a Leslie di essere in attesa di un dolce arrivo primaverile nella casetta dei sogni. Leslie la guardò con uno sguardo duro, risentito e ostile. Così avrai proprio tutto, aveva detto con voce soffocata. Poi, senza aggiungere altro, si era avviata attraverso i campi, verso casa. Anna fu profondamente ferita e le parve di non poter mai più voler bene a Leslie. Ma quando Leslie venne a trovarla qualche sera dopo, era tanto allegra, cordiale, sincera, briosa e simpatica, che Anna non poté fare a meno di perdonare e dimenticare. Però non parlò mai più a Leslie del suo tenero segreto e Leslie non vi fece mai cenno. Ma una sera, sul finire dell'inverno, quando l'aria stessa sembrava presagire la primavera, Leslie andò alla casetta per una delle solite chiacchiere e, congedandosi, lasciò un pacchetto bianco sul tavolo. Anna lo trovò rientrando e lo aprì stupita. Conteneva un vestitino bianco di squisita fattura. Il ricamo era raffinato, la pieghettatura stupenda, il modello incantevole. Era fatto tutto a mano e i pizzi sul colletto e sulle maniche erano di vero Valenciennes. Sopra c'era un biglietto con affetto da Leslie. Oh, quanto deve averci lavorato, pensò Anna. E la stoffa deve essere costata più di quanto possa permettersi. Oh, è stata un tesoro. Ma Leslie reagì in modo brusco ai ringraziamenti di Anna e quest'ultima si sentì di nuovo respinta. Nella casetta Non era arrivato soltanto il dono di Leslie. La signorina Cornelia aveva temporaneamente smesso di cucire per ottavi figli non voluti e malaccetti, dandosi a cucire per un primogenito molto voluto che sarebbe stato accolto in grande stile. Philippa Blake e Diana Wright inviarono un meraviglioso abitino ciascuna e la signora Rachel Lynde inviò parecchi indumenti nei quali l'ottima stoffa e le forti cuciture sostituivano egregiamente i ricami e i pizzi. La stessa Anna ne confezionò molti, tutti rigorosamente a mano, trascorrendo le ore più felici di quel felice inverno. Il capitano Jim era ospite assiduo e gradito della casetta. Ogni giorno di più Anna apprezzava il vecchio marinaio, dall'animo semplice, dal cuore sincero, che sapeva ristorare come una brezza marina e avvincere come un'antica saga. Non si stancava mai di ascoltare i suoi racconti e trovava deliziosi i suoi caratteristici commenti. Il capitano Jim era una di quelle rare persone che quando parlano dicono sempre qualcosa. Il latte della bontà umana e la saggezza del serpente erano mischiati nella sua natura in proporzione incantevole. Sembrava che nulla avesse il potere di irritare o deprimere il capitano Jim. «Ho preso l'abitudine di godermi le cose», disse una volta quando Anna aveva commentato la sua perenne serenità. «È tanto cronico ormai che forse finisco per godermi anche le cose spiacevoli. Mi diverto a pensare che non possono durare per sempre. Cari reumatismi, dico, quando mi prendono forte, prima o poi dovrete smetterla di farmi male e forse più cattivi siete, prima finirete. A lungo andare dovrò bene avere la meglio su di voi. O passate voi o passo io». Una sera, davanti al focolare del faro, Anna vide il romanzo della vita del capitano Jim. Non fu necessario insistere per farglielo mostrare, anzi, glielo diede con orgoglio. «L'ho scritto per lasciarlo al piccolo Joe», disse. «Non mi piace l'idea che tutto quello che ho fatto e che ho visto passi subito nel dimenticatoio quando mi sarò imbarcato per l'ultimo viaggio. Joe ricorderà e racconterà la storia ai figli». Era un vecchio libro rilegato in pelle con il resoconto di viaggi e avventure. Anna pensò che sarebbe stata una miniera per uno scrittore. Ogni frase era una pietra preziosa. In sé il libro non aveva meriti letterari. L'abilità di narratore del capitano Jim svaniva sulla carta. I suoi famosi racconti erano sommariamente abbozzati e ortografia e grammatica lasciavano a desiderare, ma Anna era sicura che qualcuno dotato di capacità letterarie, leggendo tra le scarne righe di quell'elenco di avventure, avrebbe saputo creare un romanzo meraviglioso, incentrato sul coraggio nell'affrontare i pericoli e la tenacia nell'adempiere ai doveri. Commedia e tragedia si annidavano nel romanzo della vita del capitano Jim, in attesa del tocco di una mano maestra, capace di suscitare riso, dolore e orrore nei suoi futuri lettori. Anna ne parlò a Gilbert mentre tornavano a casa. «Perché non tenti tu, Anna?» Anna scosse la testa. «No, vorrei poterlo fare, ma non è nelle mie capacità. Sai qual è il mio forte, Gilbert? Cose fantastiche, magiche, leggiadre. Scrivere come si deve il romanzo della vita del capitano Jim richiede una mano dallo stile vigoroso, eppure raffinato. Un'acuta psicologia, un umorismo innato e un innato senso della tragedia. Ci vorrebbe un talento dalle caratteristiche rare». «Potrebbe andar bene Paul se fosse più vecchio. Comunque intendo chiedergli di venire a conoscere il capitano Jim quest'estate». «Recati a questo Lido», scrisse Anna a Paul. «Non troverai qui né Nora né la signora Doro né i marinai gemelli, ma troverai un vecchio marinaio che sa raccontare magnifiche storie». Paul rispose che quell'anno non poteva venire, andava a studiare all'estero per un biennio. «Al mio ritorno verrò a Four Winds, cara maestra», scrisse. «Ma intanto il capitano Jim diventa vecchio», disse Anna con tristezza, «e non c'è nessuno che scriva il romanzo della sua vita».